La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, in questo pomeriggio di Pasquetta, lunedì di Pasqua. Spero che siate sereni, che non abbiate troppo litigato con i vostri familiari nel giorno di Pasqua e oggi. Comunque vi ringrazio di ascoltarci in diretta in podcast. Vi dirò che questa trasmissione non è in diretta, ma non perché noi non lavoriamo lunedì, perché ci tenevo particolarmente in questa giornata un po' particolare, in cui non seguiamo, come ovvio, notizie economiche, politiche e così via, a farvi ascoltare la voce di un strepitoso italiano, a mio giudizio. E questo strepitoso italiano però oggi, lunedì pomeriggio, non poteva essere con noi, perché in realtà da giovedì pomeriggio, da giovedì sera, da giovedì santo per così dire, è partito, perché in questi giorni partecipa alla 20ª Marathon des Sables in Marocco, che è una gara straordinaria di quello che si chiamano gli ultra trial, cioè le gare di corsa estreme, per così dire, perché si tratta di una gara di corsa che è su un percorso nel Marocco, nel deserto, di 230 km in assoluta autosufficienza alimentare, quindi condizioni proibitive. Non è la prima volta che lo fa, a dirvi la verità. Ha iniziato nel 1996 ottenendo un terzo posto e poi l'ha ripetuto 3 anni più tardi. Ma la particolarità di questo italiano straordinario è che ha non solo 66 anni e non solo per il fatto che 8 anni fa, quando ne aveva 58, comunque ha vinto un'altra gara incredibile, una delle più dure al mondo, che è una gara di resistenza che per 167 km attraverso Francia, Italia, Svizzera, tutto intorno al massiccio delle Alpi sul Monte Bianco, e quella l'ha vinta 2 volte, è diventato campione del mondo a 58 anni. Quindi è un italiano particolare, perché ha iniziato a correre tardi, ottiene dei risultati strepitosi a un'età in cui moltissimi di noi, di voi, saremmo a malapena stravaccati su un divano a lamentarci del nostro corpo, e lui invece ha una storia particolare, perché è attraverso la scoperta, l'affermazione del proprio corpo, che ha, per così dire, reindirizzato la propria vita, perché non aveva cominciato giovanissimo a correre, faceva sport, ma insomma a impegnarsi in queste gare così estreme ci ha messo un po' ad arrivarci, ed è diventato, come devo dire, una specie di riscatto della propria vita, una reinterpretazione della propria vita. Per chi volesse saperne di più, ma ora ve lo presento e lasciamo parlare lui, c'è anche un libro del 2012, di 3 anni fa, che si intitola Il Corridore, appunto, storia di una vita riscattata dallo sport. Sono 140 pagine e l'ha scritto naturalmente lui insieme a Gaia De Pascale, ma l'ha scritto lui, il nostro ospite che oggi è con noi collegato, l'abbiamo pescato proprio mentre stava partendo, Marco Olmo. Buon pomeriggio e grazie di aver accettato di raccontarci la sua storia, Marco. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Niente, io non penso di avere una cosa straordinaria, sono un uomo normalissimo, sì, che si è messo a correre, si è impegnato e è riuscito in qualche occasione a fare dei buoni risultati. Ma voglio dire, se non fosse straordinario sarebbero tanti come lei alla sua età a ottenere risultati di questo tipo, invece mi consenta, ma non è così. Beh, forse io sono un po' più fortunato degli altri, però c'è molta gente che è quasi la mia età o giù di lì che partecipa a queste gare anche con dei risultati abbastanza buoni. Ormai forse io sono stato un po' da esempio a allungare la percorrenza della vita nello sport. E la modestia mi pare che è sicuramente uno dei tratti del suo carattere. Ci racconti un po' la sua storia. Lei innanzitutto è un piemontese, viene da un paese non molto grande che si chiama Robilante, che è nelle montagne cunesi. Ma perché non aveva cominciato da giovane a correre? Da giovane c'era ben altro da fare, c'era andare al pasco, da accudire gli animali, da aiutare in casa, vivendo in una piccola azienda agricola che da noi si chiamano Tetti, era il primo dopoguerra, quindi c'era la miseria e lo sport era una cosa di o da professionisti o da figli di papà, insomma. Però la tentazione c'era o no? Ma forse le cose vengono così a caso dalle compagnie, da una scommessa con gli amici di riuscire a fare una gara, poi arrivare anche ultimo come è successo a me, però dire di avere la testa dura continuo. Le sfide sono così, se uno vince poi non ha più interesse ad andare oltre, se uno invece arriva ultimo cerca di migliorarsi e si intestardisce. Si intestardisce, però il problema è che evidentemente c'è anche una disciplina mentale, una predisposizione fisica ci vuole per avere risultati in queste gare, figuriamoci poi quanto bisogna curare il fisico in maniera che sia in ottime condizioni quando si procede con l'età. Però il problema è che bisogna avere soprattutto una disciplina straordinaria, se no non si diventa campioni del mondo quando è diventato lei 8 anni fa a correre tutti quei chilometri sopra e sotto le Alpi. Che cosa prevale in lei? È la disciplina, è la voglia? E la voglia di affermarsi con il proprio corpo? Oppure mi consenta un'altra domanda, ma chi fa queste gare non le fa anche un po' perché è misantropo, perché si passano nell'allenamento e nel fare poi queste gare competizioni in cui si è soli con se stessi in realtà? Sì, questa è una bella cosa, perché correre in un percorso tipo deserto o montagna è correre in natura. Poi in queste gare c'è anche molta gente, quindi a volte si è anche in mezzo agli altri, però che in mezzo agli altri, che se voglio passare 10 metri più in qua o 10 più in là si passa, non è proprio un percorso obbligato, non c'è niente di obbligato come giudici, se uno vuole cammina, se uno corre, dipende da cosa gli rende di più, è una cosa abbastanza libera, come sono io che non ho mai avuto allenatori, preparatori o cose simili. Sponsor, aziende? Sponsor o delle aziende che mi aiutano, perché sennò le mie trasferte con la mia misera pensione non riuscirei a farle, però sono degli aiuti, più grandi sono amici che credono in me, che mi danno un aiuto, piccole aziende e cose. Senta, questa prova nel deserto in cui è alle prese in questi giorni, per lei che cos'ha di straordinario? Ma io amo il deserto, amo anche la montagna, però il deserto è quello che non ho, quindi tendiamo tutti a cercare quello che non abbiamo. Il deserto è come la montagna, molto severo, non bisogna sfidarlo, non bisogna mai, cioè rispettarlo come si rispetta tutti gli ambienti, lasciarlo pulito come lo si trova, cercare, non rischiare, a parte che abbiamo un'organizzazione dietro che non c'è nessun problema, però bisogna sapersi controllare, gestirsi, siamo come una macchina, il pilota e il meccanico, siamo tutti una persona sola che fa queste corse, quindi bisogna gestire tutto. Senta, lei lo sa che, voglio dire, per via di quel fortunato film Forrest Gump, di solito chi corre così tanto viene associato quasi a un'idea di autismo, non so come devo dire, cioè di persone che sono così tante prese da questo desiderio che si astraggono completamente da tutto il mondo circostante e così via. Io trovo che sia naturalmente un'immagine molto limitativa, però di solito ricorre sempre. C'ha qualche cosa di vero questo fatto che per passare, insomma, a oramai tanto tempo dalla sua vita, come fa lei negli ultimi decenni, in queste prove bisogna essere capaci di astrarsi dal resto del mondo, forse anche fregarsene parecchio dal resto del mondo, oppure è falso? Intanto queste gare sono servite, come dicevo nel libro, per riscatto, perché essendo da giovane un po' emarginato, essendo quello di campagna, quello che andava a scuola con gli zoccoli, quello che era un po' deriso e cosa, un riscatto. Poi diventa una passione, uno gli piace, ha dei risultati e si porta avanti. Quando lei dice riscatto, se dovesse fare un paragone tra l'Italia in cui era giovane, quella di cui evocava prima le condizioni, il dopoguerra, la durezza delle condizioni nelle campagne italiane e così via, nelle zone piedemontane, poi dove insomma la miseria c'era ancora. Io devo dire, da piccolissimo, quando avevo i parenti, gli zii e i nonni, dei miei compagni di classe alle scuole elementari a Torino e andavamo in Langa, ecco, la Langa di allora non aveva niente a che vedere nei primi anni 60 con quella di adesso, dove c'è stato il grande consolidamento immobiliare. Scusatemi, delle aree vocate alla vita con dei valori pazzeschi che hanno arricchito naturalmente nel consolidamento tutte le famiglie che avevano piccolissimi appezzamenti. Ma ricordo persino io, sto parlando dei primi anni 60, che la miseria c'era ancora ed era una miseria vera. Sì, ecco, se dovesse paragonare l'Italia in cui è cresciuto lei, quella di cui adesso dice con la corsa io ho anche fatto un riscatto rispetto alle condizioni mie, della sua e della sua famiglia, a quella di oggi, che cosa direbbe? Che ci si lamenta troppo oggi, che si è persa la memoria storica in una sola generazione dell'Italia da cui lei viene? Si è perso molto a livello di cultura montanara, contadino montanara che avevo io. Si è acquisito molto in comodità, forse ci vorrebbe una via di mezzo. Una via di mezzo sarebbe l'ideale. Ma lei, voglio dire, nei giovani del paese in cui vive, non è rimasta neanche quella che di solito invece negli ultimi anni tutti diciamo l'Italia è fermissima nel coltivare le sue radici, le sue specializzazioni agroalimentari, eccetera, eccetera. È un po' una balla giornalistica oppure, come dice lei, si è molto persa questa radice? Diciamo che c'è della gente che si ritorna un po' alle origini, però ci ritorna non con i mezzi artigianali, cioè, ci ritorna con i mezzi che funzionano a petrolio, diciamo, e con le comodità, con il trattore, con l'aria condizionata, con dei cespugliatori, con tutti gli attrezzi che 50 anni fa non c'erano. Uno che sia in grado di battere una falce, di prepararsi degli attrezzi come si faceva una volta, non c'è più. Lei vedo che in realtà si guarda dal dare giudizi troppo taglienti, ma questo sicuramente deriva dal fatto di essere una persona molto, molto equilibrata. Io però ho una curiosità: quando è che per la prima volta ha iniziato a riflettere in un angolo del suo cervello intorno alla possibilità di cimentarsi con gare la cui durata e le cui condizioni estreme in realtà non aveva mai provato? Cioè, come ci è arrivato a concepire che quelle erano il tipo di gare in cui cimentarsi? Ma io ho iniziato a fare gare dai 15 ai 20, 25, ce n'era pochissima a quei tempi di 25, e vedevo che più erano dure, più gente che non riuscivo a battere in quelle dure le battevo. Quindi questo è rimasto anche dopo, perché se l'UTMB, l'Ultratrail del Monte Bianco, era solo 80 km, io mica lo vincevo, mi prendevo minimo 40-50 minuti dei primi. Cioè, lei ha Invece un sulla fisico, un distanza allenamento io. per cui sulle distanze oltre i 100, 140, 150 km riesce fuori. Sì, diciamo, mettiamola così. Mettiamola così, che è Non dura. sono un cavallo da corsa, ma un mulo. No, è il fatto che lei dica che è un mulo, deve avere evidentemente delle caratteristiche di equilibrio, di metabolismo, di assorbimento sotto sforzo dell'ossigeno nella respirazione, eccetera, eccetera. Ma adesso mi scusi se le faccio un'altra domanda, visto che noi siamo alle prese ancora con le code di un grande atleta olimpico italiano, poi scopertosi dopato e che adesso ha iniziato un percorso di riabilitazione in vista di quando, sto parlando di Schwarzer, della sua ovviamente squalifica, verrà meno nel 2016. In questo mondo che lei frequenta, di questo tipo di gare, c'è gente che si aiuta con i farmaci e si dopa oppure no? Questa è una domanda che io la mano sul fuoco la metto su di me, su altri non la metto. Quindi non è in grado di Quindi, escluderlo, perché lì credo che veramente si è agli estremi limiti umani, o no? ma Perché sì, però a sentire lei il sembra che quasi doping si è lei faccia abbassato delle. dove ci sono soldi più che altro, e poi c'è anche tra quello della domenica che per battere l'amico si prende qualche pastiglia, Ah, sì, qualcosa, che poi non il è doping questione di non è soldi. facile, è difficile il doping, perché dopare una persona costa parecchio, per doparla bene, io ho letto dei libri su questo, è una cosa non è semplice, perché solo prendersi un po' di caffeina o qualche porcheria simile serve un Eh tubo, certo. deve essere praticato tutto, muscolarmente, sulla respirazione, sul sangue, sulla mente. Non, è una cosa che bisogna essere seguiti moltissimo, se no ci si fa dei danni e non si ottengono neanche risultati, secondo me. Allora, adesso torniamo tra 60 secondi perché abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale e torniamo a parlare con Marco Olmo che nel frattempo, mentre voi ascoltate, appunto è impegnato in questa 20ª Marathon des Sables in Marocco, stiamo parlando di 230 km in condizioni estreme, anche se a sentir parlare lui sono delle passeggiate in alpeggio, poco più, ecco, non è esattamente così, è un personaggio secondo me straordinario, lo ribadisco anche proprio per questo. A tra poco, intanto a strada. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni alle 9 su Radio 24 con le provocazioni dei faccia a faccia, le inchieste, le sfide della gente e ancora le novità in rosa di Sara Tardelli, i graffi di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia di Marina Milone. Ogni giorno andiamo a caccia di verità con il fact checking, le parole alla prova dei fatti. Mix 24 di Giovanni Minoli, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 su Radio 24. Ci sono notizie di cui nessuno parla mai. Ci sono notizie che restano sempre nell'ombra, notizie che soffrono perché non godono mai delle luci della ribalta. Che fine avranno fatto? Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, con Leonardo Manera e Daniele Ceva. Il sabato alle 14.30 su Radio 24. Lei, Daniele Ceva, ci sarà? Certo, e lei, Manera? Contro voglia. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore. La conosce? No. Ah, ebbene. Sta per spuntare un campo di grano tra i grattacieli milanesi. Abbiamo chiesto a questo artista di dare questo segnale al mondo. La terra deve essere anche usata per il tema dell'Expo, che inizia il pianeta. Maturerà o non maturerà? Perché o è il solito ritardo di Expo? Lei, come sindaco di Cernobbio, rivendica la paternità dell'idea di fondere questi comuni. Esatto, poi sul nome esatto, si vedrà. Sul nome si vedrà. Prima di tutto è una questione legata al miglioramento dei servizi. Ma si potrebbe far scegliere il nome anche ai cittadini? Assolutamente sì, sarebbe una bella, anzi forse sarebbe l'idea migliore. Si può fare con Alessio Maurizi e Carlo Gabardini. Il sabato alle 7.30 e la domenica alle 8.30 su Radio 24. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati, cari ascoltatori, questo lunedì di Pasquetta siamo insieme a Marco Olmo, questo straordinario italiano che in questi giorni è impegnato nella Maratona del Sable in Marocco. Ha una storia particolare perché ha, insomma, ai suoi anni, nel 66, ha cominciato a correre questo tipo di corse estreme quando era avanti con gli anni. Ha iniziato a piazzarsi molto bene, ha iniziato a vincerle anche, e stiamo sentendo da lui come e perché. Questo è anche il riscatto di una vita. Io ricordo, chi volesse leggere anche questo racconto in maniera più diffusa, questo libro Il Corridore, che Marco Olmo ha scritto insieme a Gaia De Pascale. Allora, un'altra curiosità, caro Marco, ma quando siete impegnati in gare come questa nel deserto, voi avete un'idea precisa, momento per momento, della posizione che avete in graduatoria? Siete collegati con degli auricolari? Come funziona? Oppure è una gara in totale solitudine e poi solo alla fine si capisce? Lo sappiamo dopo, lo sanno prima da casa come siamo piazzati. Quando noi andiamo a vedere il tabellone, la casa lo sanno già, perché a casa vedono tutti i checkpoint che passiamo e... quindi c'è la webcam poi all'arrivo. Quindi lei in realtà ha come unico metro di misura se stesso? Sì, intanto passo dei checkpoint che sono ogni 10-12 km, dove ti danno una bottiglia d'acqua, ti possono il cartellino di sicurezza per vedere che sei passato, c'è il tappetino per terra che ti segnala il tempo e tutto. Quindi ogni 10-12 km sai che hai fatto quei chilometri, sai che ne avrai altri 10-12 per arrivare a un altro checkpoint per prenderti una bottiglia d'acqua o all'arrivo, insomma. Oh, e in questi 230 km alla fine il fisico in che condizioni sta, se posso chiedere? Beh, un po' malmesso sicuramente, dalla fatica, dal caldo, da su percorsi sabbiosi, di montagna e un po' di tutto, cioè. E quanto tempo è passato dall'inizio all'arrivo? Com'è? Quanto tempo passa dall'inizio all'arrivo? Cioè il suo tempo di riferimento per avere un'eccellenza quant'è? Ah, io ormai penso di quest'anno di arrivare oltre 50, perché visto sono 1300 partenti, 1330 mi pare, e io sono già un po' avanti con gli anni, quindi impiegherò, non so, 27 ore. 27 ore. perché sono a 250 i chilometri. Sono 250, esatto, io direi abbonavo 20, ma ce ne sono anche 20. Magari, sarebbe sì. Bello, farne 20 in meno, gli altri 20 in più aiuterebbe. Sì, ma purtroppo non è così. E nel corso di quelle ore, mentre si corre, eccetera, eccetera, ma viene anche sonno? No, sonno no, viene fame, ci si deve alimentare, si deve bere moltissimo perché fa caldo, ci danno un litro e mezzo d'acqua ogni 10-12 km e certe volte ne danno anche due bottiglie perché fa veramente caldo, ci sono dei percorsi sabbiosi che si impiega più tempo del previsto, quindi l'organizzazione prevede il tempo che si impiega e dà l'acqua in base ai tempi. E fame, cosa sono? Barrette energetiche, immagino? Sì, barretta energetico, barretta alla frutta, ormai c'è di tutto, dei gel, gelatine, ormai c'è di tutto e di più. Un po' di anni fa era molto più difficile, adesso c'è una vasta scelta di prodotti. Ma lei ha bisogno di mettersi a dieta in preparazione di prove estreme come queste, oppure il fisico, per così dire, ha un metabolismo tale che non è un non problema la preparazione? Io sono vegetariano per scelta da circa 30 anni o 29. Quindi ho una dieta vegetariana e finisce lì, non cerco nient'altro, non mangio normalmente. E in tutti questi anni di risultati straordinari, gliene è venuto un qualche, voglio dire, spero, significativo, anche miglioramento del reddito, eccetera, eccetera, riconoscimenti, premi, eccetera, eccetera, oppure in realtà no? Perché non mi pare che intorno a questo tipo di discipline sportive ci girino chissà quali soldi. No, non girano dei soldi, però qualcosa da gli sponsor, magari esce una vacanza. Una vacanza? Lei capisce che di fronte ad altri sportivi che diciamo hanno non esattamente prestazioni fisiche analoghe, sentir parlare di una vacanza si metterebbero purtroppo a ridere, credo. Sa, io vivo bene così perché sono libero, vado dove voglio, se mi riconoscono mi stringo la mano, nessuno mi insulta o ci mancherebbe, mi per la strada, quindi è per questo che mi sta estremamente simpatico. Poi c'è chi lo insulta perché è dell'altra squadra, no per carità, io vivo molto tranquillo, quindi per me va bene così. E i suoi familiari quando ha cominciato non le dicevano ma dove vuoi andare con l'età che hai? Ma mia moglie ha sempre creduto in me, mi ha sempre appoggiato, quindi abbiamo vissuto in funzione delle gare, quindi tanto ognuno ha qualche hobby. Io penso sempre che sia meglio l'hobby del correre che quello del gioco d'azzardo. Questo ci sono pochi dubbi da questo punto di vista. Quindi io quando mia moglie ha proprio le scatole un po' piene che dice ma sempre con queste gare, ma guarda che se avessi visto il gioco d'azzardo sarebbe peggio. Però ci vuole una moglie comprensiva, perché se io pensassi no per carità, mia moglie è una santa a sopportarmi, perché vivendo con un atleta non è facile, perché una volta è stanco, una volta è nervoso per la gara e cose. E la voglia di cambiare posto, di non trovarsi più bene in Italia, non l'ha mai provata in realtà per vivere? Uno si affeziona al proprio paese, al proprio villaggetto, che io vivo in un villaggio di 2400 abitanti, non frequento il centro del villaggio, però dovessi andare via da Robilato, per me sarebbe... Cioè è fantastico, lei di un paese di 2400 abitanti dice non frequento il centro, che dà l'idea appunto di com'è. Cioè che dicono non vado via Roma a Torino, no, 2400 abitanti ma non frequento il centro, ma mi va. No, se devo andare fino al tabaccaio per qualche commissione, imposto, questo non vado in paese, non sono un altro frequentatore del bar, dello sport. Ma almeno in paese, almeno a Robilant, quando partecipa a queste gare e ottiene comunque buoni piazzamenti, risultati eccetera, c'è un comitato d'accoglienza eccetera eccetera, si è creato nei decenni oppure no? Ma adesso ho fatto un gruppo sportivo, una podistica a Valle Vermenaglia, che organizza una gara in mio nome il 7 giugno, quindi saranno tutti invitati gli ascoltatori, speriamo che vengano. Cioè siete tutti ispirati a questa strategia del self-restraint, siete tutti molto limitati nei vostri sentimenti, lo sa che lo dicono, dei piemontesi, poi dei piemontesi montanari lo dicono ancora di più, che insomma non è una grande qualità quella dell'essere espansivi e simpatici, è vero o è falso secondo lei? Ma è un po' così, nel paesino uno se faceva l'escavatorista rimane l'escavatorista, anche se vince l'UTMB non è che... Non cambia niente. Poi no, un po' cambia, però non si deve, un po' dura diventare in patria, quindi Ho capito. C'è qualche altra disciplina che ha scoperto negli anni, oltre alla corsa, che di cui forse non aveva immaginato che potesse esserle utile per la corsa, o le ha sfiorato il dubbio di dire: ma quando poi proprio non potessi più fare queste corse così estreme, comunque mi cimenterei in qualcos'altro? Perché la vedo poco nell'idea che lei si ritira nel salotto di casa sua, ecco, questo non riesco io, a vedere. Faccio anche delle escursioni in montagna, e quelle le farò quando appenderò, diciamo, quando smetterò le gare. Gli scarpini. Comunque di correre non ci penso, smettere di correre. Magari smetto con le gare, ma non di correre. Ma lei sentirebbe di dire a chi è in ascolto che, salute permettendo, per così dire, non ci sono grandi controindicazioni a correre anche intensamente, poco per volta, dandosi percorsi e obiettivi di tempi e quindi di ritmo di passo più elevato malgrado gli anni? Si sente di dire che è una cosa che probabilmente farebbe, migliorerebbe la qualità della salute e dell'attesa di vita che si è allungata per molti italiani? Ma diciamo che la corsa, io sono dei pochi fortunati, perché la corsa è uno sport molto usurante, perché è uno sport da contatto, quindi ci sono urti, perché correndo si provocano degli urti. E poi anche le articolazioni delle gambe, ginocchia. Considererei la camminata con i bastoncini, o la bici per le strade non la consiglio perché è un pericolo. Ah sì, direi. Quindi, senta, e aver passato questa Pasqua in questo modo un po' particolare, per lei, se lo posso chiedere, arricchisce questo giorno di festa o è del tutto indifferente per lei? Ma per me la Pasqua è un giorno come l'altro, perché io corro il giorno di Natale, corro il giorno di Pasqua, corro il giorno di Capodanno, quindi per me non... cioè la Pasqua sì, se sono a casa si fa in famiglia e cose, però... Non è che... No, non cambiano. Mi dica una cosa, ma lei tra sé e sé si è posto un limite o lo scoprirà solo andando avanti? Quale limite c'è? Uno quando una cosa la fa, se gli pesa troppo smette di farlo. Il giorno che mi peserà troppo, mi sto già pesando adesso, perché ormai sono parecchi anni che faccio queste corse estreme, non mi aiuta molto. Il giorno che smetto mi dedico a gare un po' più leggere, o se no vado in montagna e mi faccio le mie passeggiate, camminate. Allora Marco, io in realtà non sono stato deluso, lo sapevo che a proporre ai nostri ascoltatori in questo giorno di Pasquetta la sua voce così priva di ogni eccesso di fronte a imprese fisiche che hanno molti eccessi come quelli in cui Marco Olmo si impegna, secondo me c'è una lezione per tutti. Dovremmo applicare lo stesso senso della misura, lo stesso senso del radicamento per l'ambiente circostante che Marco Olmo testimonia con quello che fa, con questa sua smisurata fatica, senza insegnare niente a nessuno. Grazie della Pasquetta che ci ha regalato Marco Olmo, e auguri a tutti quanti. Continuate con Radio 24, naturalmente noi ci sentiamo domani.